Libro de Giubile. 22. Festa delle settimane e delle primizie. È nel secondo anno del primo settennio del 44° giubileo, l'anno in cui morì Abramo, Isacco ed Ismaele. Vennero dal pozzo del giuramento per celebrare la festa delle settimane, la festa delle primizie. Presso Abramo, loro padre Abramo gioì per l'arrivo dei suoi due figli. Poiché Isacco aveva molti possedimenti in Bersabea, andava ispezionando e ritornava presso suo padre, poiché in questo stesso giorno Ismaele venne a visitare suo padre, tutti e due loro arrivarono insieme. Isacco ammazzò la vittima per il sacrificio e la offrì sull'altare che suo padre aveva costruito in Hebron. E immolò il sacrificio di salvezza e fece un banchetto di gioia alla presenza di Ismaele, suo fratello. E Rebecca fece una nuova focaccia di grano novello e la dette a Giacobbe, il figlio suo che era bello, perché portasse al padre Abramo le primizie della terra, le mangiasse, prima di morire, benedicesse il creatore di tutto. Ed anche Isacco mandò, per mano di Giacobbe che era bello, il sacrificio di salvezza ad Abramo affinché Abramo mangiasse e bevesse. Ed egli mangiò, beve e benedì il Dio eccelso che aveva creato il cielo e la terra, aveva fatto tutto il grasso della terra, e lo aveva dato ai figli dell'uomo, perché mangiassero, bevessero e benedicessero il loro creatore. Ed anche ora io ti ringrazio, mio Dio, perché mi hai fatto vedere questo giorno. Ecco, sono di 175 anni, vecchio, completo di tempo e tutti i miei giorni sono stati buoni a salute. La spada del nemico non mi ha vinto in tutto quel che hai dato a me e ai miei figli, in ogni tempo della mia vita, fino ad oggi. Sia, o mio Dio, la tua benevolenza sul tuo servo e sulla discendenza dei suoi figli affinché ti sia popolo eletto ed eredità fra tutti i popoli della terra, da oggi fino a tutto il tempo delle generazioni della terra, per tutti i secoli. E chiamò Giacobbe e gli disse, figlio mio Giacobbe, ti benedica il Dio di tutti e ti renda capace di far giustizia, e di compiere la sua volontà innanzi a lui stesso e scelga, fra te e la tua stirpe, che siate, per lui, il popolo della sua eredità, secondo la sua volontà, sempre. E tu, figlio mio Giacobbe, avvicinati e baciami. E si avvicinò, lo baciò e gli disse, Giacobbe, figlio mio, benedetto tu e tutti i figli del Signore eccelso, per tutti i secoli. Ti dia, il Signore, il seme della giustizia. Santifichi alcuni dei tuoi figli in mezzo a tutta la terra e tutti i popoli siano soggetti a te, e si inchinino avanti alla tua progenie. Sii forte innanzi agli uomini e quando avrai potestà su tutte le stirpi della terra e sulla stirpe di Set, allora, col divenire suo popolo santo, sarà giusto il tuo modo di vivere e quello dei tuoi figli. Ti dia, il Dio eccelso, tutte le benedizioni che dette a me e quelle che dette a noi e ad Adamo e che esse si posino sulla vetta della santità della tua stirpe, per tutte le generazioni, nei secoli. E ti purifichi, il Signore, da tutte le macchie di impurità sì che tu chieda perdono da ogni peccato che, per ignoranza, hai commesso ed egli ti dia forza e ti benedica affinché erediti tutta la terra. E rinnovi, egli, il suo patto con te affinché tu sia il popolo della sua eredità per tutti i secoli ed egli sia, per te e la tua stirpe, Dio vero e di giustizia in tutto il tempo della terra. E anche tu, figlio mio Giacobbe, ricorda la mia parola e osserva i comandi di Abramo, tuo padre. Separati dai pagani, non mangiar con loro, non agir come loro e non esser loro amico poiché le loro azioni sono impure, e tutto il loro modo di vivere è immondo, e cosa abominevole i loro sacrifici. Essi immolano ai cadaveri e si prostrano ai demoni, mangiano nei sepolcri, e tutte le loro opere sono vane ed inutili. E non hanno intelletto per pensare ed occhi per vedere quali siano le loro opere, e come essi sbaglino quando dicono ad un albero, sei il mio Dio, e ad una pietra, sei il mio Signore ed il mio Liberatore, e non hanno cuore. E anche a te, figlio mio, venga in aiuto il Dio eccelso e il Dio del cielo ti benedica e ti tenga lontano dalla loro impurità e da tutti i loro errori. Guardati, figlio mio Giacobbe, dal prender moglie di fra la stirpe di Canaan, perché tutta la sua stirpe dovrà essere sradicata dalla terra per il peccato di Camè l'errore di Canaan. E tutta la sua stirpe sarà cancellata dalla terra e, così anche, ogni superstite. E non vi è alcuno di loro che, nel giorno del giudizio, si salvi. E tutti coloro che adorano gli idoli, e gli odiati, non hanno alcuna speranza nella terra dei vivi perché scenderanno nell'inferno. E andranno nel luogo della pena infernale e non avranno alcun ricordo sulla terra. Come i figli di Sodoma furono spazzati via dalla terra, così saranno spazzati tutti coloro che adorano gli idoli. Non temere, o figlio mio Giacobbe. Non spaventarti, o figlio di Abramo. Il Dio eccelso ti protegga dall'impurità e ti liberi da tutte le vie dell'errore. Ho costruito questa casa per me, per porvi sopra il mio nome sulla terra, che è stata data a te e alla tua stirpe e si chiama Casa di Abramo. È stata data a te e alla tua stirpe, per sempre. Perché tu costruirai la mia casa e porrai il mio nome avanti a Dio, per sempre nei secoli, e la tua discendenza e il tuo nome starà durante tutte le generazioni della terra. E finì di parlare, di dargli ordini e di benedirlo. E si coricarono ambedue su un letto e Giacobbe si addormentò sul grembo di Abramo, padre di suo padre. E Abramo lo baciò, col suo pensiero. Per 7 volte il suo cuore e la sua misericordia gioirono per lui. E lo benedì con tutto il suo cuore e disse, il Dio eccelso, il Dio di tutti, creatore di tutto che mi ha fatto uscire da Ur dei Caldei per darmi questa terra da ereditare per sempre, affinché io vi ponga una progenie santa, sia benedetto, alto, nei secoli. E benedì Giacobbe e disse, sul figlio mio del quale, con tutto il mio cuore e la mia misericordia, io mi compiaccio, e sulla sua stirpe, sia la tua benevolenza e la tua misericordia lunga per tutto il tempo. Non abbandonarlo e non trascurarlo da oggi a nei secoli dei secoli e siano i tuoi occhi aperti su di lui e sulla sua stirpe affinché tu protegga, benedica e santifichi il popolo che è per tua proprietà ereditaria. Benedicilo con tutte le tue benedizioni, da oggi a sempre, nei secoli, e rinnova il tuo patto, e la tua benevolenza verso lui, e la sua stirpe, con tutta la tua volontà, fino a tutte le generazioni della terra. XXIII. E pose due dita di Giacobbe sui suoi occhi, benedì il Dio degli dei, si coprì il volto, stese i piedi, si addormentò nel sonno eterno e si unì con i suoi padri. In tutto questo frattempo Giacobbe aveva dormito sul suo grembo e non si era accorto che Abramo, padre di suo padre, era morto. E Giacobbe si destò del suo sonno, e Abramo era freddo come ghiaccio. Gridò, padre, padre. Nessuno parlò enne, si accorse che Abramo era morto. Si alzò dal suo grembo, corse e lo disse a Rebecca, sua madre. Rebecca andò da Isacco quella notte, glielo disse e andarono insieme. Giacobbe era con loro in mano una lampada, e, essendo arrivati, trovarono Abramo morto. Isacco cadde sul volto di suo padre Abramo, pianse, lo benedisse e lo baciò. E furono udite voci nella casa di Abramo e Ismaele, suo figlio, si alzò. Andò dal padre Abramo e lui e tutta la famiglia di Abramo piansero gran pianto. E Isacco ed Ismaele lo seppellirono nella doppia grotta, vicino alla moglie Sara e tutti i familiari, Isacco e Ismaele, tutti i loro figli ed i figli di Chetura piansero per 40 giorni nelle loro case. Ebbe termine il lamento ed il pianto per Abramo. Egli visse 3 giubilei e 4 settenni, e si compì il tempo della sua vita ed invecchiò al tempo giusto poiché il tempo di vita degli antenati era di 19 giubilei e, dopo il diluvio, cominciarono a scendere al di sotto dei 19 giubilei, a sottrarre giubilei, ad invecchiare presto e a esser sazi dei loro giorni di fronte alle molte malattie, e alla cattiveria del loro modo di vivere, eccettuato Abramo. Poiché Abramo era perfetto in tutte le sue azioni con il Signore ma, mentre abbelliva, con giustizia, tutto il tempo della sua vita, ecco che non compì. Poiché invecchiò al cospetto del male e si saziò di vivere, 4 giubilei di vita. E tutte le generazioni che sorgeranno da ora fino al giorno del grande giudizio invecchieranno presto, senza compiere 2 giubilei e accadrà che la loro intelligenza, a causa della loro vecchiezza, li abbandonerà e svanirà. In quel tempo, se un uomo avrà vissuto un giubileo e mezzo, si dirà, di lui, che ha vissuto molto. E la maggior parte dei suoi giorni malattia, fatica, afflizione e non vi sarà pace perché flagelli su flagelli, odio su odio, afflizione su afflizione, male sui male. Malattia su malattia, e ogni simile condanna malvagia e, cioè, vermi intestinali, grandine, neve, cenere, infiammazione, gelo, torpore, carestia, morte, spade, predazione ed ogni flagello e malattia. E tutto ciò verrà con la stirpe malvagia che farà peccare la terra con la fornicazione impura, con la impurità e con l'abominio delle loro azioni. Allora, essi diranno, il tempo della vita degli antichi era molto, fino a 1000 anni, ed era bello. Ora, al tempo della nostra vita, un uomo vive al massimo 70 anni e, se è forte, 80. E tutto è cattivo. Non vi è salvezza al tempo di questa progenie cattiva. E, in questa progenie, i figli rimprovereranno i loro padri e i loro vecchi a causa dei loro peccati, della iniquità, dei loro discorsi, delle grandi cattiverie che essi faranno e per aver essi violato il patto che il Signore stabilì fra loro e lui affinché rispettassero ed eseguissero tutti i suoi ordini, le sue disposizioni e le sue leggi senza deviare n, a destra n, a sinistra. Poiché tutti loro avranno agito male ed ogni bocca dirà cose peccaminose e tutte le loro azioni impure ed abominio, e tutto il loro modo di agire è purità, turpitudine e corruzione. Ecco che la terra perirà per tutte le loro azioni e non vi sarà n, seme di vite n, olio. Perché il loro modo di agire sarà solo ribellione e, a causa dei figli dell'uomo, periranno tutti insieme, fiere, animali, uccelli e tutti i pesci del mare. E si combatteranno gli uni con gli altri, i giovani coi vecchi e i vecchi coi giovani, il povero col ricco, l'umile col grande, il povero col dignitario, a causa della legge e del patto. Poiché avranno dimenticato il suo ordine e il suo patto, la festa, il mese, il sabato, il giubileo, e tutto quel che è giusto. E staranno con le spade in guerra per ricondurli sulla via, ed essi non ritorneranno finché non sarà sparso molto sangue sulla terra, gli uni contro gli altri. E quelli che si salveranno non si convertiranno, dalla loro cattiveria, alla via della giustizia poiché tutti quanti, per la cupidigia delle ricchezze, si solleveranno per prendersi. Ognuno, quello dell'altro e avranno un gran nome, non realmente e giustamente, ma perché insozzeranno il santo dei santi con la sozzura della corruzione della loro impurità. E, sulle azioni di questa progenie vi sarà gran flagello da parte del Signore ed egli li consegnerà al coltello, alla condanna, alla cattività, alla rapina, alla consumazione. Ed egli susciterà contro di loro i peccati di quei popoli quali, verso di loro, non avranno misericordia e clemenza, e non faranno particolarità per alcuno, n, per il grande, n, per il giovane, per nessuno, poiché essi sono cattivi e capaci di essere cattivi più di tutti i figli dell'uomo. Provocheranno turbamenti fra i figli di Israele e crimini contro Giacobbe e sarà versato molto sangue sulla terra e non vi sarà chi raccoglierà e seppellirà. Ed allora grideranno, invocheranno e pregheranno per salvarsi dalla mano dei popoli peccatori e non vi sarà chi si salvi. E si imbiancheranno di canizie i capelli dei fanciulli ed un fanciullo di 3 settimane apparirà vecchio di 100 anni e la loro statura, per i patimenti e le afflizioni, andrà in rovina. Benedizioni. Allora, I fanciulli cominceranno ad osservare scrupolosamente le leggi e gli ordini ed a ritornare sulla via della giustizia. Ed il tempo comincerà ad aumentare ed a crescere i figli degli uomini, di generazione in generazione e di tempo in tempo, fin quando i giorni loro si avvicineranno ai 1000 anni o più. E non vi sarà vecchio o chi sarà sazio dei giorni, poiché tutti saranno fanciulli e giovani. Ed essi compiranno tutto il loro tempo e vivranno in pace ed in gioia, e non vi sarà alcun demonio o alcun corruttore malvagio, poiché tutti i giorni saranno giorni di pace, di risanamento, di benedizione. Ed allora il Signore sanerà i Suoi servi ed essi sorgeranno e vedranno una gran pace, respingeranno i loro nemici e i giusti vedranno e lauderanno e gioiranno di gioia, in eterno. E vedranno, nei loro nemici, tutta la loro condanna e la loro maledizione. E riposeranno, le loro ossa, nella terra ed il loro spirito abbonderà in letizia ed essi sapranno che esiste il Signore, esecutore di giustizia. E che fa clemenza a 100, a 1000 e a tutti coloro che lo amano. E anche tu, o Mosè, scrivi queste parole perché così è scritto e innalzato, nelle tavole del cielo, per le generazioni in eterno. 24. Dopo la morte di Abramo, il Signore benedì Isacco suo figlio, e partì da Ebron e andò al pozzo della visione. Nel primo anno del terzo settennio di questo giubileo e vi stette 7 anni. E nel primo anno del quarto settennio iniziò una carestia sulla terra, oltre quella precedente, che vi era stata al tempo di Abramo. E Giacobbe cosse una polenta di lenticchie ed Esaù venne, affamato, dal campo e disse a Giacobbe, suo fratello, dammi un po' di questa polenta di frumento. Egli disse Giacobbe, dammi la tua primogenitura ed io ti darò pane, e parte di questa polenta di frumento. E disse Esaù, in cuor suo, io muoio. A che questa primogenitura? E disse a Giacobbe, te la do. E Giacobbe disse, giuramelo adesso. Glielo giurò e Giacobbe dette a suo fratello Esaù pane e polenta. Egli ne mangiò fino a saziarsi e disprezzò la sua primogenitura. Perciò Esaù fu chiamato Edom, a causa della polenta di frumento che Giacobbe gli aveva dato per la primogenitura. Isacco. Giacobbe divenne importante ed Esaù si abbassò dalla sua grandezza. E vi fu carestia sulla terra e Isacco venne, per scendere in Egitto, nel secondo anno di questo settennio, e si reò a Gerar dal re dei Filistei, Abimelech. Egli apparve il Signore e gli disse, non scendere in Egitto. Sta nella terra che io ti dico. Passa in questa terra ed io starò con te e ti benedirò. Poiché darò a te e alla tua progenie tutta questa terra e manterrò con voi il giuramento che giurai a tuo padre Abramo, e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e darò, alla tua stirpe, tutta questa terra. E siano benedetti, nella tua stirpe, tutti i popoli della terra perché tuo padre ascoltò la mia parola e osservò la mia legge, il mio ordine, la mia norma, e il mio patto. Ed ora, Ascolta la mia parola e dimora in questa terra. Ed egli stette in Gerar 3 settenni ed Abimelech, a causa di lui e di tutto il suo, ordinò dicendo: Chiunque toccherà lui o tutto quel che è suo, sarà punito di morte. E Isacco crebbe fra i Filistei ed ebbe molti beni, vacche, pecore, cammelli, asini e molte ricchezze. E Isacco seminò la terra dei Filistei e fece salire 100 spighe. Divenne grande assai ed i Filistei ebbero invidia di lui. E, dopo la morte di Abramo, otturarono tutti i pozzi che i servi di Abramo avevano scavato durante la vita di Abramo e li riempirono di terreno. E Abimelech disse a Isacco, Vattene da presso noi perché sei diventato assai più grande di noi. E Isacco se ne andò nel primo anno del 7° settennio e trasmigrò nelle valli di Gerar. E scavarono di nuovo i pozzi d'acqua che i servi di Abramo, suo padre, avevano scavato e che i Filistei, dopo la morte di suo padre, Abramo, avevano otturato e li chiamò coi nomi che, ad essi, aveva dato suo padre Abramo. E i servi di Isacco scavarono pozzi in fango e trovarono acqua viva e i pastori di Gerar si bisticciarono con quelli di Isacco dicendo, Quest'acqua è nostra? E Isacco chiamò quel pozzo? Difficile, perché ci avevano fatto difficoltà. E scavarono un secondo pozzo, e vennero a contesa fra loro, e Isacco lo chiamò angusto. Partì di là e scavarono un altro pozzo. Per esso non si bisticciarono, ed egli lo chiamò largo, e disse, Ora il Signore ci ha fatti espandere, e crebbe sulla terra. E di là salì al pozzo del giuramento. Nel primo anno del 1° settennio del 44° giubileo egli apparve il Signore, in quella notte, al principio del 1° mese, e gli disse, Io sono il Dio di Abramo, tuo padre. Non temere, perché io sono con te, ti benedico e moltiplicherò molto la tua stirpe, come sabbia del mare, a causa di Abramo, mio servo. Ed egli costruì, colà, l'altare che prima suo padre Abramo aveva costruito ed invocò il nome del Signore e sacrificò olocausti al Dio di Abramo, suo padre. Scavarono un pozzo e vi trovarono acqua viva. E i servi di Isacco scavarono un altro pozzo e non trovarono acqua viva e dissero ad Isacco che non avevano trovato acqua e Isacco disse, «Ho giurato oggi stesso ai Filistei e ci è successa questa cosa». E chiamò quel luogo Pozzo del Giuramento perché colà aveva giurato ad Abimelech, a Uzzat, suo amico, e a Picol, suo custode. E Isacco, in quel giorno, seppe che aveva loro giurato, per forza, di fare pace con loro e in quello stesso giorno li maledì e disse, «Sia maledetto il Filisteo, per il giorno della ira e dell'indignazione, fra tutti i popoli. Che il Signore li consegni all'udibrio, alla maledizione, all'ira». In mano dei popoli peccatori e li disperda nelle mani dei Chittim. E coloro che sfuggiranno alla spada del nemico e dei Chittim, li disperdano i popoli giusti, in legittimità, da sotto il cielo poiché essi, al loro tempo, saranno nemici ed avversari dei miei figli sulla terra. E non vi sarà, per loro, l'ascito di superstiti n, alcuno che, nel giorno del giudizio dell'ira, si salvi poiché tutta la stirpe dei Filistei è a perire, a essere sradicata ed espulsa dalla terra e non vi sarà più. Per tutta Kaftur, alcun nome ed avanzo di stirpe sulla terra poiché, se sale al cielo, di là lo faranno scendere, se si rinsalda sulla terra, di là sarà sradicato e, se si nasconde fra i popoli, anche di là lo si sradicherà e, se scende all'inferno, colà sarà molta la sua condanna e non avrà, colà, alcuna pace. E se va, in prigionia, per mano di coloro che cercano la sua anima, lo uccideranno per via e non vi sarà, per lui, scampo, nome e discendenza su tutta la terra. Poiché egli andrà nella maledizione eterna. Così è scritto e scolpito, a suo riguardo, sulle tavole del cielo per far per lui, nel giorno del giudizio, in modo che sia sradicato dalla terra. XXV. E nel secondo anno di questo stesso settennio di questo giubileo Rebecca chiamò Giacobbe, suo figlio, e gli disse, «Figlio mio, non prenderti una moglie fra le figlie di Canaan come tuo fratello Esau che si è preso due mogli della stirpe di Canaan ed hanno amareggiato l'anima mia? Con tutte le loro azioni impure dato che tutte le loro azioni fornicazione ed impudicizia e, con loro. Poiché è malvagio, non vi è nulla di santo. Ed io, figlio mio, ti ho amato moltissimo e la mia misericordia ti benedica in ogni tempo, e, alla vigilia delle notti, ed ora figlio mio, ascolta la mia parola ed esaudisci la volontà di tua madre, non prenderti moglie dalle figlie di questa terra, se non dalla casa di tuo padre e della famiglia di tuo padre. Prenditi moglie dalla casa di mio padre, ti benedica il Dio eccelso e siano, i tuoi figli, una progenie di santità e la tua stirpe, santa. E allora Giacobbe parlò con sua madre Rebecca e lei disse, «Madre mia, io sono della età di 9 settenni e non conosco alcuna donna. Non ho toccato sposato donna penso di prender moglie da tutta la stirpe delle figlie di Canaan, poiché ricordo, madre, le parole di mio padre Abramo che mi ordinò, di non prendere alcuna donna da tutta la stirpe di Canaan, e di prenderla dalla casa di mio padre, e del mio parentado. So, fin da prima, che a tuo fratello Labano son nate molte figlie ed io ho pensato ad esse, per prender moglie fra loro. E perciò sono stato attento, nell'anima mia, a non peccare e a non corrompermi in tutto il mio modo di agire durante tutto il tempo della mia vita, poiché mio padre Abramo abbondò, nel darmi ordini a proposito della impudicizia e della fornicazione. E, malgrado tutto quel che mio padre mi ha ordinato, durante questi 22 anni mio fratello si è adirato con me e non ha fatto che dirmi. Fratello mio, prendi in moglie una delle sorelle delle mie due mogli. Io non voglio fare come ha fatto mio fratello. Io giuro, madre mia, avanti a te, che per tutto il tempo della mia vita, non prenderò moglie dalla stirpe di tutte le figlie di Canaan e che non agirò male come ha fatto mio fratello. Non temere, madre mia, abbi fiducia che io farò la tua volontà, andrò sulla retta via e non corromperò mai il mio modo di agire. Ed, allora, ella alzò il suo viso al cielo, Stese le braccia al cielo, aprì la bocca e benedì il Dio eccelso che creò il cielo e la terra e gli rese laudi e ringraziamenti e disse: «Sia benedetto il Signore il Dio, e sia benedetto il suo nome nei secoli, che mi ha dato Isacco, figlio puro e discendenza santa. Dato che egli è tuo e tua è la sua stirpe, fino a tutti i tempi, in tutte le generazioni, nei secoli. Benedicilo, Signore, e poni nella mia bocca, affinché io lo benedica, una benedizione di santità». Ed allora discese lo Spirito Santo sulla sua bocca ed ella pose le sue due mani sul capo di Giacobbe e disse: «Benedetto tu, Signore di giustizia e Dio dei secoli, e ti benedicano tutte le generazioni degli uomini. Ti dia, figlio mio, la via della giustizia e manifesti, alla tua stirpe, la giustizia. Moltiplichi i tuoi figli durante la tua vita, e siano tanti quanti i mesi dell'anno, e i loro figli aumentino e crescano più delle stelle del cielo e della sabbia del mare. Che egli dia loro questa bella terra, così come disse che la dava ad Abramo e alla sua discendenza dopo di lui, per sempre, perché la possedessero nell'eternità. Che io veda, figlio mio, benedetti i tuoi figli durante questa mia vita, e che tutta la tua stirpe sia santa. E come concedesti quiete allo spirito di tua madre, durante la sua vita, dall'utero di chi ti generò. Così ti benedica il mio amore, e le mie mammelle ti benediranno, e la mia bocca e la mia lingua ti loderanno assai. Cresci e spargiti in terra e la tua stirpe sia perfetta in tutto il mondo, nella gioia del cielo e della terra, sia lieta e, nel giorno della grande pace, sia ad essa la pace del tuo nome. E stia, la tua stirpe, fino all'eternità, nei secoli e il Dio eccelso sia il loro Dio e stia sempre con loro e, in essi, sia costruito il suo santuario in tutti i secoli. Chi ti benedice, sia benedetto, ed ogni carne che ti maledice con menzogna, sia maledetta. Lo baciò e gli disse: «Ti ami il Signore del mondo così come il cuore e l'affetto di tua madre gioiscono di te e ti benedicono». E tacque, poi, dal benedire. 26. E nel settimo anno di questo settennio Isacco chiamò Esau, il suo figlio maggiore, e gli disse: «Figlio mio, io sono invecchiato, i miei occhi si sono indeboliti alla vista, ed io non conosco il giorno della mia morte. E ora prendi le tue armi da caccia, il tuo arco e la tua faretra, esci nei campi e va a caccia per me e cattura, figlio mio, e fammi un cibo che mi sia gradito, portamelo e che io lo mangi e la mia anima ti benedica prima che io muoia». E Rebecca, mentre Isacco parlava a Esau, udiva. Esau, di buon mattino, si reò nelle selve per mettere le reti, catturare e portare a suo padre. E Rebecca chiamò il figlio Giacobbe e gli disse: «Ho udito tuo padre Isacco mentre parlava con tuo fratello Esau e gli diceva: va caccia per me, fammi un cibo, portamelo e che io ti benedica, davanti al Signore, prima di morire. Ed ora ascolta, figlio mio, quel che io ti ordino, va al tuo gregge e prendimi due bei capretti, e che io ne faccia una pietanza come a lui piace e che tu la porti a tuo padre. E che egli la mangi sì che egli ti benedica, al cospetto del Signore, prima di morire. E, così, tu sarai benedetto. E Giacobbe disse a sua madre Rebecca, io non risparmierò la mia fatica per tutto quel che mio padre mangia e gli piace. Ma io temo, madre mia, che egli riconoscerà la mia voce e vorrà tastarmi. E tu sai che io sono glabro e che Esau, mio fratello, è peloso. Ed io, avanti ai suoi occhi, sarò come se lo vilipendessi e facessi cose che egli non ha ordinato. Ed egli si adirerà contro di me ed io porterò, su di me, maledizione e non benedizione. E la madre Rebecca gli disse, la tua maledizione su di me, o figlio mio. Ascolta, però, la mia parola. E Giacobbe ascoltò la parola di sua madre Rebecca, andò, prese due bei capretti grassi, li portò a sua madre e sua madre li cucinò come piacevano a Isacco. E Rebecca prese i vestiti di Esau, suo figlio maggiore, quello più amato che stava presso di lei nella sua casa, e, nella propria casa, li mise addosso al figlio Giacobbe, e le pelli del capretto gliele mise sulle mani e sulle carni nude. Ed ette, nelle mani di Giacobbe, la polenta ed il pane che aveva fatto. E Giacobbe andò da suo padre e gli disse, ecco, sono io, tuo figlio. Ho fatto come mi hai detto. Alzati, siediti e mangia di quel che ho cacciato, padre mio, affinché tu stesso mi benedica. Isacco disse a suo figlio, come ti sei affrettato a trovarlo, figlio mio? Giacobbe gli disse, è il tuo Dio che me lo ha fatto trovare davanti. Isacco gli disse, avvicinati a me. Che io ti tocchi, figlio mio, se sei il mio figlio Esau o no. Giacobbe si avvicinò a Isacco, suo padre, e lo palpò e gli disse, la voce è quella di Giacobbe, la mano è quella di Esau, e non lo riconobbe, perché era destinato, in cielo, a perdere il suo spirito. Non si accorse di benedire Giacobbe, dato che le mani di lui erano pelose come quelle di Esau. Gli disse, sei tu, per davvero, mio figlio Esau? E quello gli disse, sono tuo figlio. Gli disse, porgimi e che io mangi parte di quel che hai cacciato, figlio mio, affinché l'anima mia ti benedica. Ed egli gli porse la vivanda ed egli mangiò. Gli porse del vino, ed egli bevve. Egli disse suo padre, Isacco, avvicinati, e baciami, figlio mio. Egli si avvicinò e lo baciò. Ed egli sentì il profumo delle sue vesti, lo benedì e gli disse, ecco il profumo di mio figlio come il profumo dei campi che il Signore ha benedetto. Che il Signore ti dia e ti moltiplichi più della rugiada del cielo e della rugiada della terra e incrementi, in tuo favore, l'abbondanza di grano e di olio. E si sottomettano, a te, i popoli e si prostrino, i popoli, al tuo cospetto. Sii signore dei tuoi fratelli e si prostrino a te figli di tua madre. Tutte le benedizioni che il Signore fece a me e da mio padre Abramo siano per te e per la tua progenie nei secoli. Chi ti benedice, sia benedetto e sia maledetto che ti maledice. Giacobbe. Dopo che Isacco ebbe finito di benedire suo figlio Giacobbe, questi uscì da suo padre e si nascose. Ed Esaù, suo fratello, tornò dalla caccia, fece anche lui la vivanda, la portò a suo padre e gli disse: «Alzati, padre mio, e mangia, parte della mia caccia affinché tu stesso mi benedica». Gli disse Isacco, suo padre: «Chi sei?» Ed egli gli disse: «Sono Esaù, il tuo figlio primogenito, ed ho fatto come mi hai ordinato». Ed Isacco si meravigliò assai e disse: «Chi è questo che è andato a caccia ed ha messo le reti per me, mi ha portato la preda, ed io ne ho mangiato di tutto prima che tu venissi, e io ho benedetto? Sia benedetto lui e tutta la sua stirpe nei secoli». Ed Esaù, quando ascoltò le parole di suo padre Isacco, gridò a gran voce, amaramente, e disse a suo padre: «Benedici anche me, padre». Egli disse: «Tuo fratello è venuto con la frode e si è preso la tua benedizione. Ed ora io so perché il suo nome fu chiamato Giacobbe. Mi ha defraudato. Ecco, questa seconda volta, prima si è presa la primogenitura, ed ora si è presa la mia benedizione». E disse: «Non hai in serbo per me, o padre mio, una benedizione?» Ed Isacco rispose e disse ad Esaù: «Ecco, l'ho nominato signore di te e di tutti i suoi fratelli, e gliel'ho dati perché gli siano servi, e l'ho rinforzato con molto grano, vino ed olio. Che cosa posso ora fare per te, figlio mio?» Esaù disse: «Hai solo una benedizione, o padre? Benedici anche me, padre». Alzò la voce e pianse. E Isacco rispose e disse: «Sia la tua sede priva della rugiada della terra e di quella del cielo che le è sopra, vivi col tuo coltello e sii soggetto a tuo fratello. E, se ti sarai rifiutato e avrai rimosso il suo giogo dal tuo collo, accada, allora, che commetterai ogni peccato mortale e che la tua stirpe sarà sradicata da sotto il cielo». Ed Esaù minacciò Giacobbe a causa della benedizione che suo padre gli aveva fatta e disse in cuor suo: «Giunga, adesso, il giorno del pianto di mio padre affinché io possa uccidere Giacobbe, mio fratello». XXVII. E disse, in sogno, a Rebecca, le parole di suo figlio maggiore, Esaù, e Rebecca mandò a chiamare Giacobbe, suo figlio minore, e gli disse: «Ecco, tuo fratello Esaù minaccia di ucciderti. Ascolta, adesso la mia parola, parti e fuggi presso Labano, mio fratello, e sta con lui per pochi giorni fin quando l'ira di tuo fratello si sarà calmata ed egli avrà abbandonato la sua ira verso di te ed avrà dimenticato tutto quel che gli hai fatto. Io, poi, ti manderò a chiamare da colà». E Giacobbe disse: «Io non ho paura. Se vuole uccidermi, lo ucciderò». Ed ella disse: «Che io non resti priva, in uno stesso giorno, dei miei due figli». E Giacobbe disse a sua madre, Rebecca: «Ecco, tu sai che mio padre è invecchiato ed io vedo che i suoi occhi si sono aggravati. Se lo lascio, poiché lo abbandono e me ne vado da voi, ciò sembrerà brutto avanti ai suoi occhi. Mio padre si adirerà e mi maledirà. Io non me ne vado. Me ne andrò solo se egli mi manderà via. E Rebecca gli disse, io andrò da lui, gli parlerò ed egli ti manderà via. Ed ella si reò da Isacco e gli disse, ho in uggia la mia vita a causa delle due figlie di Et che Esau ha preso in moglie. E, se Giacobbe si prende una moglie fra le figlie di Canaan, a che, dunque, vivrò, dato che le figlie di Canaan sono malvagie? E Isacco chiamò il figlio Giacobbe, lo benedì, lo redarguì e gli disse, non prenderti moglie fra tutte le figlie di Canaan. Parti e vai in Mesopotamia alla casa di Batuel, padre di tua madre e prenditi, di là, una moglie fra le figlie di Labano, fratello di tua madre. Il Dio del cielo ti benedica e ti faccia crescere, ti moltiplichi, e che tu possa diventare una caterva di popoli? E dia le benedizioni di mio padre Abramo a te e alla tua stirpe dopo di te, sì che tu possa ereditare la terra della tua emigrazione e tutta la terra che il Signore dette ad Abramo. Va, figlio mio, in pace. E Isacco mandò via Giacobbe e questi andò in Mesopotamia da Labano, figlio di Batuel, siriano, fratello di Rebecca, madre di Giacobbe. E, dopo che Giacobbe fu partito per andare in Mesopotamia, l'anima di Rebecca, dopo che suo figlio era partito, si addolorò e piangeva. Ed Isacco disse a Rebecca, sorella mia, non piangere a causa di mio figlio Giacobbe, poiché egli andrà in pace ed in pace tornerà. Il Dio eccelso lo proteggerà da tutti i mali, e starà con lui poiché, per tutto il tempo della sua vita, non lo abbandonerà. Poiché io so per certo che gli renderà prospero il suo viaggio ovunque andrà, fin quando ritornerà da noi, in pace, e noi lo vedremo in buona salute, non temere per lui, o sorella mia, poiché la sua via è retta, ed egli è uomo perfetto e credente e non si perderà. Non piangere. Ed Isacco consolò Rebecca riguardo a Giacobbe, suo figlio, e lo benedì. Betel. E Giacobbe uscì dal pozzo del giuramento, per recarsi a Arran, nel primo anno del secondo settennio del 44° giubileo e giunse a Luz, che è nel monte. Cioè Betel. All'inizio del primo mese di questo settennio, e giunse in luogo all'imbrunire. E, in quella stessa notte, si allontanò dalla strada, verso occidente della strada, e si addormentò colà perché il sole era tramontato. Prese una delle pietre di quel luogo, la pose sotto quell'albero, egli andava solo. E si addormentò. E sognò, quella notte, un sogno, ecco, una scala piantata a terra la cui cima toccava il cielo, gli angeli del Signore vi salivano e scendevano sopra ed il Signore stava su di essa. E il Signore parlava con Giacobbe e gli diceva, io sono il Signore, Dio di Abramo, tuo padre. E Dio di Isacco? Io do la terra sulla quale stai dormendo a te e alla tua progenie dopo di te. E la tua progenie sarà come sabbia del mare e tu aumenterai nel mare a oriente, a nord e a sud e saranno benedette, in te e nella tua stirpe, tutte le terre dei popoli. Eccomi. Io sto con te e ti proteggerò ovunque tu vada e ti farò rientrare in questa terra, in pace, poiché non ti abbandonerò fin quando avrò fatto ciò che ti dico. E Giacobbe dormì il sonno e disse: Per davvero questo luogo è la casa del Signore ed io non lo sapevo. Ebbe paura e disse: Questo luogo mirabile non è altro che la casa del Signore e questa è la porta del cielo. E Giacobbe partì all'alba, prese la pietra del suo guanciale e la pose come cippo, a segnale in quel luogo. Vi versò dell'olio sopra e chiamò quel luogo Betel, e quel luogo prima si chiamava, così come si chiamava la regione, Luz. E Giacobbe pregò il Signore dicendo: Se il Signore starà con me, mi proteggerà in questo viaggio che faccio, mi darà pane da mangiare e vestiti da indossare, e se ritornerò in pace alla casa di mio padre, sia. Allora, il Signore il mio Dio e questa pietra che io ho messo a cippo, per segnale in questo luogo, sia la casa del Signore. E, di tutto quel che mi hai dato, o Signor mio, te ne darò la decima parte. 28. E si mosse e si reò nella terra di Oriente, da Labano, fratello di sua madre Rebecca, e stette con lui e lo servì, per causa della figlia Rachele, per un settennio. E nel primo anno del terzo settennio gli disse: Dammi come mia sposa la donna per la quale ti ho servito 7 anni. E disse Labano a Giacobbe: Io te la darò tua moglie. E Labano fece un convito e prese la sua figlia maggiore, e la dette in moglie a Giacobbe e le dette Cilpa, la sua serva, come serva e Giacobbe non se ne accorse. Perché credeva che fosse Rachele. Ed egli entrò da lei, ed ecco che ella era là. E Giacobbe si adirò contro Labano e gli disse: Perché hai fatto così? Non è per Rachele che ti ho servito e non per là? Perché mi hai fatto torto? Prenditi tua figlia. Io, poiché hai agito male contro di me, me ne vado. Perché Giacobbe amava Rachele più di là, dato che gli occhi di là erano deboli e solo il suo aspetto era assai bello, mentre Rachele era di begli occhi, di bello aspetto e assai graziosa. E Labano disse a Giacobbe: Nella nostra terra non si usa dare la figlia minore mentre vi è la maggiore. E non è giusto far ciò, poiché così è scritto e stabilito nelle tavole del cielo, che non vi sia chi dà la propria figlia minore piuttosto che la maggiore. Il dare la precede, dopo di lei, si dà la minore. All'uomo che fa peccato, glielo ascrivono in cielo e non vi è chi faccia ciò e si santifichi. Poiché questa azione è brutta al cospetto del Signore. E anche tu ordina ai figli di Israele. E non facciano ciò e non prendano e non diano la minore senza far precedere la maggiore, poiché è assai brutto. E Labano disse a Giacobbe: Passino i 7 giorni del banchetto di costei ed io ti darò Rachele affinché tu mi serva per altri 7 anni per pascolare le mie pecore come hai fatto nel primo settennio. E quando passò il 7° giorno del banchetto di là, Labano dette Rachele a Giacobbe affinché egli lo servisse per altri 7 anni e dette a Rachele, come serva, Bila, sorella di Zilpa. Ed egli servì per altri 7 anni per causa di Rachele poiché la gli era stata data inutilmente. Ed il Signore aprì il grembo di là che concepì e generò un figlio a Giacobbe e Giacobbe lo chiamò Ruben, il 14° del 9° mese del primo anno del terzo settennio. Ed il grembo di Rachele si chiuse poiché il Signore vide che la era odiata e che Rachele era amata. E Giacobbe entrò per la seconda volta da là, e costei rimase incinta e gli generò un secondo figlio ed egli lo chiamò Simeone. Il 21 del decimo mese del terzo anno di questo settennio. E Giacobbe entrò ancora una volta da là e costei concepì e gli generò un terzo figlio ed egli lo chiamò Levi, al principio del primo mese del sesto anno di questo settennio. E Giacobbe entrò ancora da là e costei concepì e gli generò un quarto figlio ed egli lo chiamò Giuda, il 15 del terzo mese nel primo anno del quarto settennio. E, per tutto ciò, Rachele, poiché non generava, invidiavala e disse a Giacobbe, dammi un figlio, e Giacobbe le disse, ti ho, forse, io impedito il frutto del tuo ventre? Ti ho trascurata? E quando Rachele vide che la aveva generato quattro figli, Ruben, Simeone, Levi e Giuda, gli disse, entra da Bila, la mia serva ed ella concepirà e ti darà, per me, un figlio. Ed egli entrò da lei ed ella concepì e gli generò un figlio ed ella lo chiamò Dan il 9 del sesto mese nel sesto anno del terzo settennio. E poi Giacobbe entrò di nuovo da Bila e costei concepì e gli generò un secondo figlio e Rachele lo chiamò Neftali il 5 del settimo mese del secondo anno del quarto settennio. E quando la vide che era diventata sterile e non generava, ebbe invidia di Rachele e dette anche lei la propria serva, Cilpa, a Giacobbe come moglie. E concepì e generò un figlio ed ella lo chiamò Gad il 12 dell'ottavo mese del terzo anno del quarto settennio. Ed entrò una seconda volta da lei ed ella concepì e gli generò un figlio, e la lo chiamò Aser nel secondo dell'undicesimo mese del quinto anno del quarto settennio. E Giacobbe entrò da là e costei concepì e gli generò un figlio e lo chiamò Issacar il 4 del quinto mese del quarto anno del quarto settennio e lo dette alla nutrice. E Giacobbe entrò di nuovo da lei ed ella concepì e gli generò due figli, maschio e femmina, ed ella chiamò Zabulon il maschio e Dina la femmina. Nel settimo mese del settimo anno del sesto settennio del quarto. Ed il Signore fu benevolo verso Rachele. Le aprì il grembo ed ella concepì e generò un figlio e lo chiamò Giuseppe all'inizio del quarto mese del sesto anno in questo quarto settennio. E, quando nacque Giuseppe, Giacobbe disse a Labano, dammi le mie mogli e i miei figli. Io me ne vado da mio padre Isacco e mi farò una casa dato che ho compiuto gli anni in cui ti dovevo servire in cambio delle tue figlie. Io me ne vado a casa di mio padre. E Labano disse a Giacobbe, sta presso di me per mercede. Porta ancora a pascolare i miei greggi e prenditi la tua paga. E si dissero fra di loro che gli avrebbe dato, come mercede, tutti gli ovini, fra agnelli e capretti, che fossero nati color cenere, screziato e bianco. E tutte le pecore generavano screziate e tutte che avevano segni e strisce e generavano ancora dello stesso loro aspetto. E tutte quelle che avevano segni erano di Giacobbe e quelle senza segni erano di Labano. E i beni di Giacobbe crebbero assai, ed egli possedette vacche, pecore, asini, camelli, figli e figlie. E Labano e i suoi figli ebbero invidia di Giacobbe e Labano raccolse le sue pecore, separandole da quelle di lui e pensò al male. 29. E quando Rachele generò Giuseppe, Labano andò a tosare le proprie pecore perché stavano lontane da lui 3 giorni di cammino. E Giacobbe vide che Labano andava a tosare le pecore e, allora, chiamò la e Rachele e parlò al loro cuore affinché andassero con lui alla terra di Canaan. Poiché disse loro tutto quel che aveva visto in sogno e tutto quel che, affinché ritornasse alla casa di suo padre, gli aveva detto. Ed esse gli dissero, noi andremo ovunque tu vada. Noi verremo con te. E Giacobbe benedì il Dio di suo padre Isacco ed il Dio di Abramo, padre di suo padre, e partì. Caricò le sue donne ed i suoi figli, prese tutti i suoi beni, passò il fiume e giunse alla terra di Galaad e tenne nascosto il suo pensiero a Labano, e non glielo disse. E nel 7° anno del 4° settennio Giacobbe ritornò nel Galaad il 21° del 1° mese e Labano lo inseguì e lo trovò, il giorno 12 del 3° mese. Sul monte di Galaad. Ed il Signore, poiché gli apparve in sogno di notte, non gli permise di far male a Giacobbe. E Labano parlò a Giacobbe. E il 15° di quel tempo, Giacobbe fece un banchetto a Labano e a tutti quelli che erano venuti con lui e, in quel giorno, Giacobbe giurò a Labano e Labano giurò a Giacobbe che non si sarebbero fatto del male, l'un l'altro, sul monte di Galaad. E fecero, colà, un gran mucchio di pietre a testimonianza. Perciò quel luogo fu chiamato, in conformità a questo mucchio, mucchio di testimonianza. E prima, la terra di Galaad la chiamavano terra di Refaim, poiché era territorio di Refaim, e della stirpe di Refaim i giganti, la cui altezza andava da 10 a 7 cubiti, la cui sede era dalla terra della stirpe di Amon fino al monte Ermon, e la cui sede regale era Carnaim, Astarot, Edrei, Nisur, Ebeon. Ed il Signore, per la cattiveria delle loro azioni, poiché erano assai malvagi, li distrusse e, al loro posto, si stanziarono gli Amorei, cattivi e peccatori e non vi è, oggi, popolo che abbia compiuto tutti i loro peccati e non vi è più, sulla terra, prolungamento della loro vita. E Giacobbe congedò Labano, che andò nella terra di Mesopotamia, terra di Oriente, ed egli ritornò nella terra di Galaad e passò lo Yabbok, nel 9° mese, l'11. In questo giorno giunse presso di lui suo fratello Esau, si riconciliarono ed andarono da lì nella terra di Seir e Giacobbe passò la notte nelle tende. E nel 1° anno del 5° settennio di questo giubileo passò il Giordano e passò la notte al di là del Giordano per far pascolare le sue pecore dalla terra di Feseat fino a Bet-Shean, e fino a Dotan, e fino alla foresta di Aquabim. E mandò a suo padre Isacco parte di tutti i suoi beni, vestiti, cibi, carne, bevande, latte, olio, burro e datteri del basso piano. Ed anche a sua madre, a Rebecca, mandava doni 4 volte all'anno. Fra le stagioni, fra la aratura e la mietitura, fra estate e piogge, fra stagione delle piogge e stagione asciutta, nella torre di Abramo, poiché Isacco era ritornato dal pozzo del giuramento. Ed era salito nella torre di suo padre Abramo e se ne stava, colà, lontano da Esaù, suo figlio, dato che, quando Giacobbe andò in Mesopotamia, Esaù aveva preso in moglie Macalat, figlia di Ismaele, aveva radunato tutto il gregge di suo padre. E le sue donne, era salito e aveva soggiornato sul monte Seir, lasciando Isacco, suo padre, solo, al pozzo del giuramento. Ed Isacco era salito dal pozzo del giuramento e si era fermato nella torre di Abramo, suo padre, sul monte di Hebron. E, di là, Giacobbe mandava tutte le sue spedizioni a suo padre e a sua madre, di tempo in tempo, e tutto quel che loro necessitava ed essi benedicevano Giacobbe con tutto il cuore e l'anima loro. Trenta. Dina. E, nel primo anno del sesto settennio salì a Salem, che è ad oriente di Sichem, in pace, nel quarto mese. E colà rapirono Dina, figlia di Giacobbe nella casa di Sichem, figlio di Amor. Leveo, governatore della regione, e costui giacque con lei e la disonorò. Essa era una piccola ragazza di 12 anni. Egli pregò il padre ed i fratelli di lei affinché ella gli fosse data in moglie. Giacobbe e i suoi figli si adirarono a causa degli uomini di Sichem. Poiché essi avevano disonorato Dina, loro sorella, e parlarono con loro con cattiveria, li ingannarono e li lusingarono. E Simeone e Levi entrarono all'improvviso in Sichem e fecero giustizia su tutti gli uomini dei Sichemiti, uccisero tutti gli uomini che vi trovarono, e non ne fecero scampare neanche uno. Uccisero tutti con sevizie poiché avevano contaminato la loro sorella, Dina. E così, dunque, non si farà, da oggi fin nell'eternità, di disonorare una figlia di Israele? Perché nel cielo è stata stabilita la loro condanna, che, cioè, si uccidano di spada a tutti gli uomini dei Sichemiti, poiché essi avevano fatto disonore a figlia di Israele. E il Signore li consegnò nelle mani dei figli di Giacobbe affinché li sradicassero con le spade e facessero giustizia su di loro sì che non accada più una cosa simile in Israele, di disonorare una vergine israelita. E se in Israele v'è un uomo che voglia dare sua figlia o sua sorella a qualsiasi uomo che sia della stirpe dei pagani, sia condannato a morte e lo si lapidi poiché egli ha fatto peccato e vergogna in Israele e la donna la si bruci sul fuoco perché ha disonorato il nome della casa di suo padre e sia, essa, sradicata da Israele. E non si trovi in Israele, per tutte le generazioni della terra, fornicazione e corruzione, poiché Israele è santa al Signore e, chiunque la disonora, muoia, lo lapidino. Poiché così è stato stabilito e scritto sulle tavole del cielo a proposito di tutta la stirpe di Israele, che chi disonora, sia condannato a morte e lo si lapidi. E non vi è, a questa legge, limitazione di tempo e non vi è perdono o remissione e sarà sradicato, anzi, l'uomo che abbia disonorato, in mezzo a tutto Israele, la propria figlia per aver consegnato a Moloch della propria stirpe e per aver commesso il peccato di contaminarla. Sulle tavole del cielo, come al solito, il comandamento che non sta scritto nella legge viene detto inciso nelle tavole celesti. Ed anche tu, o Mosè, ordina ai figli di Israele e di loro che non diano le loro figlie ai pagani e che non prendano di tra le figlie dei pagani poiché ciò è spregevole al cospetto del Signore. E, perciò, io ho scritto per te, nelle parole della legge, tutto quel che i sichemiti fecero ai danni di Dina e quel che dissero i figli di Giacobbe allorché dissero, non diamo una nostra figlia ad un uomo che abbia il prepuzio. Poiché, per noi, è un obbrobrio. Ed è un obbrobrio per Israele, per coloro che danno e prendono le figlie dei pagani, dato che ciò è impuro e spregevole per Israele, e dato che Israele non si purifica da questa impurità. N. Colui che abbia moglie presa di tra le figlie dei pagani N. Colui che abbia dato qualcuna delle proprie figlie ad uno che sia dei pagani. Poiché sarà flagello su flagello, maledizione su maledizione e verrà ogni flagello, maledizione e condanna. E se fa ciò e se finge di non veder coloro che commettono impurità, che profanano il santuario del Signore e contaminano il nome santo. Per tutta questa impurità e contaminazione sarà condannato tutto il popolo, insieme. E non vi sarà partigianeria o favoritismo e non vi sarà, dalle sue mani, offerta di frutta, sacrificio, olocausto, grasso per l'esalazione del bel profumo. Perché egli l'accetti e tutti, uomini e donne, siano, in Israele, profanatori del suo santuario. E, perciò, io ti ho ordinato e ti ho detto, fa udire questa testimonianza su Israele. Vedi quel che accadde ai sichemiti e ai figli di lei, come fu data nelle mani dei due figli di Giacobbe, e come le uccisero con sevizie e divenne, per essi, opera di giustizia e fu loro ascritto a giustizia. E la stirpe di Levi fu scelta per il sacerdozio e per Leviti affinché servissero, come noi, al cospetto del Signore, in ogni tempo e fossero, Levi e i suoi figli, benedetti per sempre. Poiché aveva avuto lo zelo di far giustizia, condanna, e vendetta di tutti coloro che si erano sollevati contro Israele. E, così, essi innalzeranno per lui, a testimonianza nelle tavole del cielo, benedizione e giustizia innanzi al Dio di tutto. E anche noi ricordiamo la giustizia che l'uomo attuò durante la sua vita, in tutti i tempi dell'anno. Fino alla millesima generazione innalzeranno la benedizione, ed verrà a favore di lui e delle generazioni dopo di lui ed egli è iscritto giusto e da amico nelle tavole del cielo. Ed io ho scritto per te tutte queste cose e ti ordino di dirle ai figli di Israele affinché non commettano peccato e non trasgrediscano la legge e non violino il patto che fu stabilito per loro al fine che lo attuassero e fossero iscritti amici. E, se avranno deviato o avranno fatto alcuna delle azioni impure, saranno iscritti, come nemici nelle tavole del cielo. E saranno cancellati dal libro dei vivi ed iscritti nel libro di quelli che periranno e con quelli che saranno sradicati dalla terra. Nel giorno in cui i figli di Giacobbe espugnarono Sichem salì, a loro favore, scritto nel cielo, che essi avevano fatto giustizia, equità e vendetta sui peccatori e fu ascritto a benedizione. Essi fecero uscire Dina, loro sorella, dalla casa di Sichem e catturarono tutto quel che era fra i sichemiti, le loro pecore, le loro vacche, i loro asini, tutto il loro gregge, tutti i loro beni e portarono tutto a Giacobbe, loro padre. Ed egli parlò con loro a causa del fatto che essi avevano espugnato la città poiché aveva paura di coloro che stavano nel territorio, dei Cananei e dei Ferezei. E vi fu il terrore del Signore in tutti i paesi che al di là dei Sichemiti e ad essi, poiché su di loro cadde il terrore, non si sollevarono per scacciare i figli di Giacobbe.